Pronto, Claudia? Ecco, sono Alessandro. Niente, mi ha dato il numero un ragazzo che ha chiamato direttamente te per avere un'autorizzazione per fare podcast. Ecco, mi ha passato il tuo numero perché ha detto che sei stata molto chiara e gentile per alcune... E lui chi è, scusami? Ha preso una licenza da noi già? Sì, sì. E sarebbe Zubar? Esatto, esatto. Esatto. Il tuo servizio è analogo? Allora, quello che volevamo fare noi, dico noi perché sono io con altre persone che stanno in altre città anche all'estero, era più una cosa sperimentale di, sì, comunque fare un podcast simile, però non puntato prettamente alla musica, ma però solo con l'ausilio di qualche musica di sottofondo, ma più che altro era chiacchiera. Era chiacchiera? Sì. Anche quello di Zubar, sì, c'è della musica, ma non è certo la parte principale del servizio che offre. Adesso fammi ricordare, lui ha... che tariffa ha pagato? Ma lui mi ha detto che paga tipo 400 euro all'anno. Sì, esattamente, perché aveva considerato fino a un massimo di 200 opere che potevano essere inserite nelle varie trasmissioni. 200 ore? 200 opere. Ah, 200. Ho capito. Tu hai una vaga idea di quanto possono andare? Perché lui mi aveva detto delle altre cifre, cioè tipo 20 brani scaricabili contemporaneamente. Cioè... Ah, scusa, hai ragione. Per lui è scaricabile, io pensavo solo sullo streaming, poi il post non era possibile. Sì, allora lui aveva fatto quella fine a 20 opere. Perché aveva detto che sicuramente nella trasmissione ci sarebbe stato poca musica, non sempre neanche tutelata, quindi sì. Infatti probabilmente anche gli autori non so ci sia, e quindi avevamo fatto questo forfè. Ecco, ho capito. Tu pensi di poter stare sulle cifre di Zubar? Guarda, onestamente noi, essendo studenti, non è che abbiamo budget che ci possiamo assolutamente permettere. Infatti noi avevamo puntato di usare brani come sottofondo, quindi non cose tipo radiofonia che facciamo ascoltare, solo esclusivamente come sottofondo, giusto per dare un minimo di accompagnamento, roba che era non coperta da diritti, o tipo Creative Commons, oppure musicisti così che, non so, vai a una fiera, una cosa o un'altra, ti danno un demo gratuito, e quello lì è libero di diritti, ecco. Dipende, non è detto. Sì, in maniera esplicita, cioè ovvio, non è che loro hanno il bollino e noi lo mettiamo su cose in cui ci dicono guarda, questo l'abbiamo fatta così e non ha diritti. Roba di questo tipo qui. Io volevo chiedere appunto se anche per le musiche di sottofondo, se capita, diciamo così, uno o due brani che... sono tutelati? Sì. Andrebbe sottoscritta. Anche è influente il bacino d'utenza delle persone che raggiungono questo eventuale sito? Ai fini della CIG? È influente, anche perché questi si chiamano proprio ARM, che sta proprio per siti minori, e noi lo diamo già per scontato che non ci sia un bacino di utenza clamoroso, quindi diciamo che non devono esserci pagine, perché poi parliamo di internet in questo caso, visitate, certo. Oltre le 30.000 mete. Ma sono... sarà la centesima parte. Sì, però diciamo da 0 a 30.000, perché poi se si superano questi scaglioni si passano alle licenze internet più care, cioè dove quegli importi per compenso anno diventano quasi compensi mensili. Ti dico, io, scusi, niente, io era un discorso quello che avevo fatto, cioè l'informazione è giusto perché per vedere se era valido per tutti i tipi di brani, cioè quelli usati come sottofondo oppure trasmessi direttamente. La musica viene trattata tutto allo stesso modo, non importa la durata, non importa se è strumentale, canticchiata, schiattata. Addirittura. Sì. Cioè noi, ipotesi, se mi metti con un'altra a cantare al microfono una canzone non lo potremmo fare? No. Cioè lo potreste fare, ma dovreste comunque pagare i diritti. Hai capito. Mamma mia. Perché in questo caso tu non stai, probabilmente, cioè non dovresti pagare i diritti a, facciamo che ti metti a canticchiare una canzone di Eros Ramazzotti, ok? Ok. Allora, non paghi il diritto a, alla casa discografica, perché non stai utilizzando il supporto. Ok. Paghi il diritto magari all'artista, perché la stai interpretando tu, ma io, facciamo finta che l'ho scritta io la canzone di Eros Ramazzotti, che sono l'autore, invece devo percepire un compenso, stai utilizzando un'opera mia. Ok. In questo caso qui è sempre una cifra fissa, no? Sì. Sempre, diciamo, sarebbe la cifra che paga Zubar a questo punto. Motivo in più se voi dite che molta della musica potrebbe non essere tutelata, che comunque verranno utilizzati solo brani di sottofondo, quindi non supererete, diciamo, mai le 20 opere totali. Oddio, non posso mettere mano sul fuoco, perché metti che facciamo una trasmissione alla settimana e come sottofondo mettiamo già 4 brani, in un mese e mezzo abbiamo già finito i bonus. Ma se tu magari contemporaneamente non ne hai mai più di 20, no? Magari. Dopo magari ne utilizzi una settimana 10, la settimana dopo ne utilizzi 5 che avevi utilizzato nella settimana precedente, e poi ce ne metti 10 nuove magari. L'importante è che non ci siano in contemporanea più di 20 opere, capito? Ho capito. Poi se tu durante l'anno ne utilizzerai 150, l'importante naturalmente è che ci fai un report, un resoconto, che viene fatto annualmente. Sì. Su un modello diciamo, che mandiamo noi, inviamo noi tramite mail. Ho capito. Tu li dichiari che hai utilizzato 100 opere, ma mai contemporaneamente, non ce ne sono mai state più di 20 in onda e contemporanea. 20 diverse? Sì. Perché ad esempio se c'è lo stesso brano in, diciamo, una sigla di apertura, sì, quella viene conteggiata una volta sola. Sì. Ho capito. Va bene, quindi praticamente non usiamo roba a coperta diritti. Mi sa che la soluzione. No, perché 400 euro all'anno, cioè. Sì, per noi studenti, sì, è una cifra. È un peccato perché questo qui dei podcast è una cosa interessante che sta avendo un certo riscontro. E purtroppo fare le cose, cioè noi vogliamo fare le cose in regola, per carità, però onestamente sono cifre che non è che ci vengono molto incontro, è quello il discorso. Comunque, quindi il. Sono comprensive dire, sono annuali, che vuol dire che se te lo sottoscrivi oggi paghi una quota parte di questi 430 euro, perché sono 8 mesi e non 12. Ho capito. E per un numero, mettiamo, infinito di canzoni, mettiamo così, le cifre sono diverse. Sì. E quanto ci sono? Esattamente. Diciamo, questo tipo di licenza di cui stiamo parlando adesso copre fino a 500 opere. Cioè, 500 opere sono 1700 euro l'anno. Ah. Se poi hai un numero infinito, allora si passa dalla licenza quella normale, quella di cui ti parlavo prima, che parla di 277 euro mese. 277 euro mese, che sono 2000. Sono più IVA, vengono circa 6-3000 euro. Però, ho capito. Va bene. Adesso ci pensiamo un attimo, così vediamo un attimo da farsi che musica scegliere a sto punto. Così. No, sono rimasto un attimo allibito anche la cosa che del fischiettare. Cioè, onestamente, perché la nostra idea è di fare tipo delle sigle famose cantate tra di noi, così, però, mamma mia, e che cosa si va incontro? nell'eventualità che facciamo solo una cosa fischiettata così? Tutto sta se qualcuno lo fa o qualcuno li ascolta e magari fa quella che non piace un fischiata. Vabbè, non siete voi direttamente. Noi con ci sono delle multe, magari si richiede il pagamento dell'anno, perlomeno, se non doppio. Poi per cose più importanti, forse insomma un po' più di rilievo, c'è un gioco finanza. Ci sono... Sì, sì, ma ci sono varie... Cioè, dico, non è che siete voi che fate il giro, non so, di tutti i podcast e poi dopo cominciate a salassarli uno per uno, no. E se qualcuno denuncia un fatto che sia stato violato un proprio diritto. Sì, però sai, adesso, come hai detto, sta prendendo abbastanza piede. Sì. Quindi, non oggi, non quest'anno, magari l'anno prossimo qualcuno potrebbe anche farlo il giro, se il fenomeno si allarga. Ho capito. Ma adesso, per esempio, in questo momento c'è per le web radio. Ho capito. Beh, web radio così intendi streaming, giusto? Sì. Ah. Oddio, se uno ha un bacino, da quello streaming, ha un bacino d'utenza che è di, 10-12 persone, stavo pensando. Perché noi abbiamo fatto delle prove di trasmissione anche di streaming. Così, e lì lo ammetto, abbiamo messo qualche musica, ma era per fare delle prove se funzionava tutto quanto il sistema. E lì abbiamo visto che con una DSL normale non vai oltre le 8-9 persone, quindi... In contemporanea? Sì, ma con una DSL che ti danno adesso non vai oltre, proprio Dio chi va oltre tanto di cappello, ecco, così non... Però ecco, c'è anche qui... Ah, quindi se uno vuol fare anche streaming, sono delle altre cifre oppure sono comprese? No, sono delle altre cifre. Pure. Dipende da... su che sito sono inserite, che finalità si hanno. Mettiamo che viene trasmesso in streaming e poi dopo anche in podcast. Anche? Sì, cioè è la stessa trasmissione dove viene trasmesso in streaming e poi dopo viene fatto il podcast. Però ecco, tu mi parli di trasmissione, che vuol dire? Non è una radio, cioè dove c'è musica 24 su 24? No. Sempre parlando di podcast. Sì, facciamo. Quindi sempre trasmissione parlate con. Sì, sì, sì, sì. Identica, la medesima trasmissione, viene fatto. No, esattamente la metà. Ecco, la metà. Cioè, quello di cui parlavamo prima, se tu metti quelle 20 trasmissioni, sì, 20 brani musicali, sì, in streaming sul sito, sono €216 l'anno. Ecco. Più, se faccio podcast, la cifra doppia. È la cifra doppia, sì. Ho capito, quindi... ho capito. Va bene, io ti ringrazio. Se fai quella, l'ASM, cioè quella con... che permette di scaricarlo, probabilmente potresti far rientrare entrambe. Con un'unica cifra, sia quello che dai su internet che quello che fai scaricare. Perché tu, in effetti, la fai prima sentire e poi se ti piace te la scarichi, giusto? Sì, possiamo vederla come questa ottica qui, sì, sì. E allora basterebbe quella da 432. Ho capito. E euro entrambe le cose. L'anno. Sì, è praticamente un preascolto. Esattamente. Ho capito, quindi €432 l'anno, praticamente massimo 500 opere e 20 opere contemporanee. Massimo 20 opere contemporanee. Massimo 20 opere contemporanee per un totale di 500 opere l'anno. No, le opere tu le puoi utilizzare quanto te ne pare. Ah, ecco, ok, perfetto. Perfetto. Okay. Va bene, ti ringrazio. Niente, figurati. Ok, ciao.